sapevi, oh, ci sei. Sapevi, oh. Ehi, avanti, avanti. E perché te l'ho mandato, Tommy, non l'hai visto? No, adesso la guardo. Ehi, guarda, lo guardo. Ehi, adesso qua è il modello 230. Ehi, 230, sì. Fa anche HF quello. Sì, sì. Sapeva che facci. Ehi, ya. Ascolti, quanto sto arrivando? 95. Quanto? 95. Segnale 9. Aspetti che chiudo la porta qua, c'è una musica. Ho detto 9 più 5. Ti ha detto la c'era la musica, non sentivo, signor Giù. Segnale. Modulate 9 più 5. 9 9 più 5 modulate. Ok, la radio è buona? Sì, la radio è buona. Ok. Niente, adesso vediamo un attimino se possiamo migliorare qualcosa. Ma l'antennino sempre hai? Come? Se te lo sembra sempre l'antennino, ma non mi senti? Ehi, a positivo, sì sì, l'antennino. È troppo amplificato, ma sì, leggermente poco poco. Non me lo puoi dire, cosa ne sapevo? Te più lontano, così, vero? Va così la radio? Benissimo, segnale 925. Forte, eh? Sto usando 5 watt in questo momento. Arriva quasi sul 3. Quasi sul 3. Chi è avanti? C'è qualcuno che sta chiamando, salve, io lo sento moltissimo. Chi è che chiama avanti? Provi a vedere ora il segnale com'è. Adesso è 9.10 quasi. 9.8, dai, per l'esattezza 9.8. Ha migliorato qualche cosa? Sì, ha migliorato molto anche. Ecco qua. E adesso siamo con 40 watt, portata bianca. Ok, va benissimo. Ma con l'antennino sempre? Sempre con l'antennino. Metta a posto le stazioni dell'antennino. Nulla, nulla, non c'è possibilità. Mi ho detto, mi serve lo strumento come ci deve. Non può. Non è possibile. Vabbè, dai. Adesso ti mando la fotografia anche di un altro strumento. Questo però è professionale. Aspetta che te lo mando. Nulla. È inutile che manda foto. A me mi serve lo strumento a comprarlo. Se me lo vende, lo va a prendere ora. Leggerino, sì, leggerino. Attenzione, che ti incendio l'apparecchio. Cambio. Oia, aumenta, aumenta. Basso, basso, basso. Prova a farti un giro su 40 canali, vai. Che ti faccio abbattimento zero. Cambio, cambio. Schiaccia la portante modula, Franco. Cambio passo. Ma non piace la ridere, si può sapere. Lo sa lui, lo sa. Ehi, vabbè, vabbè. Ecco, guarda l'altro che ti ho mandato, guarda. Papà. Ebbene, come ti sembra? Sta video. Buongiorno, non c'è. Buongiorno, buongiorno. Sì, signor Giù, sì, ma mi ispira più quello dei paggi. Guarda che quello è professionale, di quello che si sente. Quello è professionale veramente. Fa tutto, fa qualsiasi frequenza. Anche gli UHF. Ciao Carlo, ben ascoltato, avanti. Buongiorno Giulio e buongiorno a chi c'è, la tua voce la riconosco. E niente, sto facendo il ponte nuovo via Rosso per andare a lavorare, a mezzogiorno devo essere a lavoro. Ah, ok, ho capito. E cosa video sono? Adesso te lo mando avanti. Vai, c'è video per Carlo. Buongiorno Carlo, ben ascoltato. Ciao Saverio, ben riascoltato. Come sento con questa radio, gli ho fatto un po' di qualche giochetto per avere qualcosa in più. Bene, bene, quando arrivi bene. Una radio di 5, segnale 9 più 20 abbondante. Bene Meda, penso che stia uscendo adesso con una ventina di watt. Va benissimo, ottimo per la truppa. Avanti giù. Ok. Stavo dicendo, sai, quello è completo, ma quello non te lo nome, ma scherzando sta. Comunque guarda, se vuoi tenti presso quello più piccolino non si presta, non c'è problema. Una volta che hai accordato poi ve lo restituisci, va bene? No, mi serve uno strumento che deve essere completo, anche per il VAT, perché comunque devo tararmi il baracchino, il VAT in base a qualcosa che devo usare, e devo essere sicuro di come lo sto pilotando. Quindi già l'ho preso, adesso sono andato su IB, capito? Quello che mi ha fatto vedere lì, quello che sono interessato io. Avanti, chi è che vuole entrare? Avanti. È Salverio. Ciao Pupù, allora, passo tiro su, attrinzati. Mazzo, per il quale non posso andare, già lo sai. Buongiorno a tutti. Io rispegni la sega a nastro però, Pupù, spegni la sega a nastro, no, che si sente di più della tua voce. Salvi, la sega a nastro accesa. Vabbè, c'ho anche delle scariche io ora. Sicuramente questa cabina dell'aereo che ho qua a fianco io, di fianco a me, non è molto lontana dall'antenna. E ogni tanto mi sento le scariche, siccome è quella. No, è l'alimentatore che c'ho piccolino. E si sente un bel. Adesso ho abbassato il microfono, Giulio. E adesso va meglio, così va meglio un pugno. C'è Carlo, avanti Carlo. Buongiorno Antonello, niente, ho sentito il video, ma che strumento ti serve, Saverio? Un TM1000 io stavo cercando, la ZG. Ah no, negativo, no, io ho uno Zither con vanometro e rossi e solo quello. Cosa deve fare il TM1000, Saverio? Antonello, ti sento basso oggi, come vai? Non lo so, voi dovete fare il TM1000, ce l'ho io il TM1000, però... Cosa devi? Controllati le stazionarie. Non ti sto sentendo, cioè il segnale è 8, però la radio si porta appresso, sento queste scariche che c'ho sotto, non riesco a copiarti bene. Ho detto che c'ho il TM1000 io, e devo andare sempre a controllare le stazionarie. TM1000, Antone, tu che a controllare le stazionarie, a cosa può servire? Cara Fittina, che domande anche tu. Capito, Salvi? Ce l'ha anche lui, ce l'ha me. No, lui c'ha il 501. C'ha il 501, quello che va a me, Antone. C'ho anche il TM1000, rimbambito, te l'ho anche detto. Aspetta che ti sto facendo la massa perché non ti capisco bene, c'è questo coso là appresso, c'ho delle scariche a Santiago 3, tu sei 8-9 e poi te le porti appresso, aspetta che ti chiamo. Ehi, va bene. Ok, buongiorno Carlo, comunque, quando sei libero passa per quelle, a ritirare quegli apparecchietti lì, mi fai uno squillo di telefono e così passi e li ritiri. Sì, non mi sono dimenticato, Antonè, è che in questo periodo sono molto impegnato, sto rifacendo un bagno a casa di mia suocera, che non è a Sassari ma a Bonorva, quindi sono avanti e indietro tra lavoro, impegni di famiglia, e uno me ne stava venendo sopra adesso, la bagassa sua, cazzo. Vabbè, non c'è fretta, ce li ho qua in salone, quando vuoi mi fai uno squillo e te li porti a casa, li fai con calma. Capito? Già non c'è nessun problema. Aspetta, sta chiamando Salvini così viene a pigliarsi TM1000 e almeno prova le stazionari. Giulio, ci sei? Sì, ci sono, Carlo, ci sono. Dove sei arrivato adesso? Adesso sono a Predanieda, praticamente alla rotatoria che c'è dove c'è il vialetto, e quindi tra un po' inizio la quattro corsie. Oggi dovrei riuscire ad arrivarti un po' più lontano dell'altra volta perché ho qualcosa in più in radio. Ho capito. Cosa hai fatto? L'hai aumentato il coso? Come si chiama? Quella specie di resistenza che c'è dentro, il trimmer? Sì, esatto, praticamente questa è una mini radio, quelle piccoline che praticamente stanno nel palmo di una mano. E, in altri paesi escono ovviamente con la banda ampliata e con più watt. E quindi si tratta di aprire, tagliare un ponte, farne uno nuovo e spostare un jumper da una posizione all'altra, però ho trovato un tutorial che me l'ha fatto vedere una volta, mi sono dotato di mini saldatore, quello 8 watt con diciamo la temperatura regolabile, perché sennò rischi di bruciare la piastra, perché praticamente il circuito è tutto micronizzato, tutte parti piccolissime. Pare sia andato tutto bene al primo tentativo e non si vede niente. Sono riuscito a rimettere il sigillo scaldandolo, tolto, rimesso, quindi sembra nuovo di zecca. Bravo, hai fatto bene, dai, così almeno qualcosina di più ti darà. Praticamente adesso ti dovrebbe dare quanti watt. Eh sì, dovrei uscire in FM con 12, in FM con 20, 12 in AM e 20 in banda laterale. Ah ok, vabbè, meglio così, dai, qualcosina hai guadagnato rispetto a quelli di prima, che magari saranno stati 3,5-4, non di più. Di solito li fanno così, loro li saranno per quella potenza. Sì, e prima era 4 watt perché l'avevo misurata ed era 4 effettivi. L'antenna è sempre quella, ancora non ho avuto, in questo periodo sono molto impegnato. Adesso c'ho lunedì, domani che mia moglie deve fare un tampone perché mercoledì ha un piccolo intervento in chirurgia plastica e quindi sono incasinato tra turni di lavoro. Meno male mercoledì mi hanno dato un giorno, così riesco a seguire mia moglie e poi spero dalla prossima settimana di tornare alla normalità, insomma, se mi finisco nel bagno così ho un pochettino più di tempo libero. Ok, ho capito, sei ancora impegnato praticamente in quel di Bologna, ho capito, sì, me l'avevi spiegato un po' di giorni fa che avevi quell'impegno, e vabbè, meglio così, dai, meglio così. Comunque mi sei arrivato quasi 9 più 20 un momento fa, per cui si è proprio a portata di tiro e schioppo da dove sono io, almeno in quel momento, vedi? Sì, va bene. Vabbè, no, si sente molto bene ancora, dai. Adesso si è calata di nuovo, chiaramente, ma poc'anzi mi si è arrivato a 9 più 20, per cui adesso invece si è calata di nuovo a 9, ma è sempre un buon segnale. Ho capito, sì. Va bene. Vediamo un po' fin dove riesco ad accompagnarti, sperando di sentirti il più a lungo possibile in questo viaggio che stai facendo. Beh, lo so, però uno la mia posizione in questo momento, con l'antenna sul tetto, tra virgolette, che poi non è sul tetto ma è sul terrazzo della mansarda, per cui, però, e poi adesso sto uscendo molto basso, come vantaggio sto uscendo molto molto basso, no? 5 watt sto usando appena. Sì, va bene, adesso ho aumentato un pochino, adesso sono con 10, con 10 watt adesso sto uscendo, perché prima era proprio basso, perché di solito uso sempre questi qua, 8-10 più o meno, vai. Saverio ha telefonato a Pomponio, è al telefono con Pomponio, non so se è rientrato, adesso chiedo, ci sei Saverio? No. Non c'è, boh. No, non c'è, Cambaleo, io non lo sento. Che prende Carlo? Ho detto che chiedevo, sta meglio da dove modula, da Sotto, se non sbaglio, o da Porto Torre? No, è molto vicino a te, è zona Monte Alto, Monte Rosello, parte alta, per cui a livello di chiesa più o meno, là, alla testa della chiesa, di Via Castelleretta. Ehi Giulio, sono al telefono con Antonello, riprendo subito. Ok. Ok. Vabbè, ti ho chiamato infatti, Sabrina, ma hai spiegato. Sì, c'è ancora, però è al telefono con Antonello o Carlo. Sì, è avanti, c'è qualcuno che vuole entrare? Buongiorno Giulio, buongiorno. Mario Porto Torres, non so se mi ascolti, ma siamo qua in paramobile, avanti pure col buongiorno a tutti e la buona domenica. Oh, ciao Mario, ben ascoltato dopo un po' di giorni, dai, mi fa piacere di ascoltarti. Sono in compagnia di Carlo che si sta trasferendo in quel di Alghero, per cui non so, l'avrei sentito, suppongo. Vai ancora Mario per Carlo che sta viaggiando verso Alghero. Ma guarda, io non credo che lui mi sente, che lui possa sentirmi, comunque sì. Tra l'altro ho sentito mezzo tuo passaggio perché involontariamente ho premuto il bottone dei canali e sono finito sul 9, quindi ti sentivo di splattero. Vabbè, niente, avanti l'amico che sta andando in Alghero, se mi sta ascoltando, ma ho i miei forti dubbi. Avanti pure. Non lo so, Carlo, ti avevo rilanciato Mario che è entrato da Porto Torres, appunto, forse non l'hai sentito, ti ha rilanciato, l'hai sentito, no? Ok, Carlo, ti ho sentito molto molto basso, ti stavo già perdendo, no, sì, a livello di QML state arrivando, no. Oh Mario, non ti ha sentito, veramente, adesso io ti rilascio il microfono, vediamo forse lui sta facendo, magari non so, forse, anche perché so che per Porto Torres Alghero non è che sia, io è peggio di me, che io Alghero non è che va molto bene, Mario. È così anche Porto Torres, non è che va molto bene per Alghero. Vai Mario. Giulio, no, ma io non lo sento, ma tra l'altro poi sono anche in macchina, sono in Marra Mobile qua verso, sto andando a Porto Torres, adesso mi trovo qui praticamente dove c'è Bricoman e sto praticamente per andare, insomma sto arrivando a di punti, in poche parole, dai. E niente, quindi non so se mi ascolta, ma è impossibile perché in macchina, lui sicuramente è in macchina, quindi non riesco ad ascoltarlo, perciò io guarda, faccio prima così, li mando a te, così lo chiami tu, vedrai che te ti sente per forza, vai. Ok, Mario, sì, però non sento io lui, secondo quello. Non sento lui, anche lui ha un antennino, anche lui. Mai se ne macchina, non è che ha una grossa trasmissione, per cui, vabbè. Avanti Carlo, vediamo se riesco ad ascoltare. Mario non ti ascolta. Comunque ti saluta. Mario, niente da fare, non lo sento più per niente. Guarda, io meno che meno, onestamente, proprio sono già arrivata di punti praticamente, non riesco a sentirlo, io poi ho 80 cm d'antenna, quindi non ho neanche una roba da poter dire, sì vabbè, non riesco ad ascoltare, proprio zero. Poi queste sono zone praticamente un po' strane, nel senso che spesso si va in buca e quindi si fa fatica. Comunque vabbè, io adesso ti ascolto bene, probabilmente sei anche in zona, quindi. E niente, io sto passando i punti adesso e verso Porto Torres. Comunque se c'è qualcuno che vuole venire avanti, sono buona domenica. Questo è Mario, Giulio, avanti pure. Buongiorno e buona domenica a tutti. Io vi rispondo solo perché Carlo ha detto che sta arrivando a destinazione. Ok. Ciao Claudio, sì, va benissimo, grazie per il ponte, ma purtroppo io non lo sento, anche lui, oh Mario, è con un antennino corto, anche lui nella macchina, tipo calamista anche lui, perciò non ha questa grande trasmissione. Mi prendi ancora Claudio, vai per salutare a Mario e poi magari se c'è ancora Carlo fai la ponte che lo saluto e così lui viene, va al lavoro e non se ne parla più, ci sentiamo magari un altro momento. Vai Claudio. Sì, buongiorno anche a Mario, arriva benissimo anche Mario, vediamo un pochino se Carlo risponde. Carlo sei già arrivato, così saluto Sassari perché non ti sentono più. Ok, allora vi saluto a tutti, è già arrivato, non vi sente più, ci si sente stasera. Ok, ciao Carlo, buon lavoro, buona domenica, buon tutto da parte anche di Giulio e di Mario, ciao ciao. Ok, ciao, grazie Giulio, fatto. Comunque qua arriva benissimo Fertini, c'è l'aeroporto, arriva una canonata veramente come arrivava prima nell'altra zona. Dai, il cambio per te Giulio, sto facendo due cosette, poi 10 minuti vi faccio compagnia, ok? Io sono rientrato, Ciao Claudio. Ciao, salve, vai Giulio. Ok, d'accordo. Oh, ben rientrato, salve. D'accordo Claudio, siamo qua, dai. Intanto nel frattempo io faccio compagnia. compagnia Mario. Sapete, vai per Mario che entra, ci trovo anche lui nella mia zona, ma sta andando lontano da me, dai, vai Saverio. Ok, ok, buongiorno, saluto Mario, me l'ha ascoltato. Buongiorno Saverio, buongiorno anche Claudio, ben sentiti, buona domenica ovviamente. Niente, mi sono fermato due secondi qua, perché sennò mi perdevo, insomma, rischiate di perdere me più che altro, io mi sento sempre. Comunque niente, dai, Giulio, rilancio per te, anche se sono vicino, comunque adesso stacco perché mi impegno qua un attimo alla guida, non si sa mai, anche perché c'è un po' di traffico, quindi voglio stare un po' attento, anche perché ho il baracchino un attimino a spenzoloni, quindi sai com'è, non vorrei un attimo di distrazione causare qualche maldestro, va bene. Quindi niente, rimango in ascolto, saluto Saverio, Claudio, Giulio, da parte mia QRX qui a Porto Torre, poi eventualmente ci si sente da casa. Vai pure Giulio, riprendi pure. Ok, ok Mario, grazie, allora per le due chiacchiere ci sentiamo eventualmente più tardi o stasera magari se coincide. Bene, bene, vai Saverio per salutare a Mario che chiude, vai. Ok Mario. A più tardi al limite. Comunque qua ti arrivi ultimamente, non so che altezza sei arrivato, dove sei, segnale tuo 9 più 10 e la radio 5. Ok, va benissimo. E ancora saluti, sempre qua su un discorso, sono 20 marzo adesso, buono. Lo riprendo veramente più, vai Claudio di nuovo. Riprendo io perché Claudio ha detto che rientravo fra una decina di minuti, è indaffarato anche lui. Va bene, di nuovo salutoni Mario, alle prossime. È sempre un piacere dialogare con te. Allora, sapi, adesso si è arrivato 9 più 10 è leggermente abbondante. Non esagerare per quella questione. No, assolutamente. Lo sai cos'è? Che mi sono dimenticato di mettere in stand-by. Quindi lui ha scaldato e adesso sta dando quello che deve dare, ma sono sempre a metà potenza, sono a metà potenza. Appunto, ma non hai l'antenna bene tarata, dunque non esagerare, perché più ne dai e più salgono, ricordati quello, non esagerare. Siamo giù, io lo so, ma non lo gioco nell'apparecchio né niente, sono a metà, proprio perché non sono accordato bene. Adesso ha scaldato la valvola, quindi sta arrivando qualche punto S in più. Ok, va bene. Sì, infatti me ne sono accorto che avevi qualche watt in più, per cui... Davvero? Non avendo l'antenna ben tarata, è un rischio grande, quello che vuoi. Per cui stai attento ai finali della va bene. Davvero, dai. Concluso con lo... Un attimino che devo vedere i bambini qua, arrivo subito, sono giù. D'accordo. Ciao Giulio, buongiorno. Ciao Franco, ben ascoltato, avanti fra. Ciao. E allora, no, com'è? Com'è? Una giornata così con Giulio, comunque non è brutta, dai. Non ci possiamo lamentare. Gappa. Chi c'è qua Giulio? Cosa video, Elo, cosa video? E poi c'è Claudio in quel ricchi, ti ascolto, perché è innaffarato, sta facendo cose a casa. Io non ho capito chi altro ci sia, lo leggo. Comunque ciao anche a Claudio, non l'ho sentito perché l'ha acceso adesso, e stavo sistemando uno spinotto di un microfono qua. Comunque ciao Giulio, mi pare Mario, avevo sentito se non vado errando. Ciao Mario, se mi ascolti buona domenica anche a te. Rilancio a te la microfonia, Giulio riprendi tu. Registrato il break. Sì, beh certo, ma Mario non riprendeva perché sta viaggiando, capito? Abbiamo pensato che magari ci sentiamo più tardi o stasera se coincide. Avanti il break. Metti a posto tutto Gianni, quel microfono sta fischiando e poi basta anche la radio con l'eco, buttalo via che non si capisce niente. Ciao Gianni, buongiorno, buona domenica anche a te. Ok, sì, sta uscendo un po' di fischi Gianni, la modulazione è molto disturbata. Prova. Male, male, male. La radio non si capisce niente. Ti può confermare Giulio? E glielo ho già detto che c'è malissimo. Sta uscendo malissimo Gianni, non è la tua radio, dai. Metti a posto quel microfono come si deve. Perché stai uscendo veramente male. No, non è il microfono, non è che l'ho toccato per sbaglio il tasto dell'eco dell'apparecchio. Adesso hai migliorato, adesso va bene, dai. Adesso va bene, non è fortissimo ma già va bene. Così va bene, avanti qua. Ok, dai, la via è sempre buona la radio, Giulio. Sì, sempre buona, no? Molto, molto colposa, molto colposa. Ma quella cosa è? Che radio è quello? Ma il 68 sei andato. Il 48 modificato, Giulio, con l'MM più 4 sotto. Volevo dire il 48, volevo dire, dai. Sì, sì, ho capito che stai usando quello. Sì, già va bene, certo non è mai l'altro, questo sia ben chiaro, però già va bene, non c'è problema. E vabbè, l'altro diciamo che l'ho messo in stand-by, però per la radio che è già va bene lo stesso, non è che sto scendendo con questa grande potenza, 5 watt, 10 modulati. Vabbè Franco, buongiorno. Ciao Salvi, buongiorno, buona domenica. Bene, mi ascolti con questa radio, Salvi. Certo, ti ascolto bene, cioè è leggermente appena cupa la radio, però forte, ci mancherebbe che non ti ascolto bene. E capa, sta piantando un 48 modificato con MB più 4, capito? Tutto qua. Sì, ma l'eco non è un eco colto. No, eco non ne ho. E tu dici che non ne hai eco. Già ce l'hai, e come? Che l'eco? E allora lo tolgo perché a me l'eco non mi piace. Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ma non lo puoi disattivare del tutto. È diverso, però a sua volta c'è sempre un fondo di eco sotto. Vabbè, ma lo posso anche tu dire. No. Adesso l'ho tolto completamente. Com'è? Sta a parroggio, va bene. Va benissimo. Ottimo. A me non è che mi piace, ecco, Salvi, da fastidio, è fastidioso, capito? Adesso l'ho escluso completamente, è tutto qua. Giulio, il rapporto di segnale com'è da te? 9 più 15, 9 più 15 modulati, 9 più 18. No, ma già è buono, anche il segnale è abbastanza buono, no, non c'è problema. Sì, ma certo, lui sente l'eco, perché lì è a 30 metri, alle 6.2, è chiaro che sente l'eco il Salvio. E vorrei vedere, se stacca l'antenna ti sente lo stesso, figurati un po', fra. Quello sì, Gappa, già va bene. Comunque la moderazione, il segnale è sempre 9.5, così è. 9.5? 9.15 abbondante, modulati 9.18. Io ho convinto vera 9.5. Va bene, comunque ok, lo lascio così allora, dai. Vai Salvi. Eia, bene. Adesso questi giorni ci mettiamo a piombo qua. E lì se ci metti l'antenna esce forte. Certo che sì. Sì, intorno a mercoledì dovrei piantarla. Con quale antenna stai pilotando? Qualche boomerang? Relativo. Preso l'antenna, anche perché qua la volta non bisognava a metterla. Momentaneamente non aggiungo la stagnata la capissuria. Dunque sto piantando la Ringo M. La Ringo, l'ultimo modello che è uscito con la Ringo. AT94. Cata Roberto tu hai fa, mamma mia Salvi. Ah, la Salvi, a parte che non esiste più l'analogico, è tutto digitale, dunque ti vuoi, non ne vai. E poi no, lascia perdere, l'ultimo modello della Ringo, non è quella che quando pioveva entrava acqua stazionaria a 3, no. Ah, ho capito altro, ma io ho il modello vecchio della Ringo. E questa ti dicevo l'hanno ricondizionata, l'hanno modificata proprio perché aveva quei problemi lì, capito? E quindi entrava acqua e normalmente che si arriva a stazionaria, è giusto, è normale che sia così. Bene Meda, vai Giulio. Infatti gli avevo detto che la Ringo poteva fare quel, ma se è un tipo nuovo magari è stato fatto con un'altra concezione, per cui sarà migliorata sicuramente. Quella antica faceva appunto quel difetto, bastava un po' di pioggia per aumentare molto le stazionarie, però come antenna quando era asciutta andava bene, per cui cui non credo che abbiano fatto qualcosa di sbagliato, perché se l'hanno rifatta vuol dire che è stato anche a quello, no? Suppongo di sì. E beh, sapete, cosa hai deciso col pompugno? Se lo da lui? Oh, per il momento me lo sta apprezzando, sto salendomi adesso, vai. Infatti mi devo sentare. Guarda, c'è avuto una calamita in garage, sennò avrei piantato il baracchino in macchina in 2 secondi. Sì, vabbè, non c'è tutta questa fretta, non c'è questa necessità. Non è un problema, va bene, dai. Comunque, dipende fra. Capo di positivo, dai, riprendo io. Il segnale è sempre uguale, Giulio? Sì, va bene, va, sempre così, è sempre lo stesso segnale. Fai un passaggio, fra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allora, qua attenuato di 20 dB, sì, 9 più 10, attenuato. Cioè, non sento nessuno, se io chiudo il riferimento qua non si sente nessuno. E vabbè, siamo anche vicini, salve, forse anche per quello. A dire vicini è poco, fra. Allora, la mia antenna, la tua antenna sono esattamente, adesso ti dico i metri. Salvedio, attenuami e vedi se mi senti, attenuami. Attento, Salvedio, mi senti? Allora, sono 30-40 metri, la mia antenna dalla tua, una quarantina di metri, non di più. Prova, Giulio, che ti attenuo. Prova, guarda che a che livello mi attenui, che non mi senti più. 1, 2, 3, prova, vai, Salve. No, nulla, mi sparisce anche la radio. Ma completamente attenuato. Salvedio, mi senti? Salvedio, si prende Franco. QSL, sicuramente non ti sentiva o giù. Eh beh, se mi attenua completamente non lo può sentire, è logico. Devo detto a vedere a che livello mi sentiva con l'attenuazione. Via. Quasi 9.10, 9.15, Giulio. Con quale radio? Con 48? No, con l'altra. Adesso ho cambiato il radio. Ah, ok, vabbè. Vabbè, dai. Anda bene. Prova con quest'altra radio che ti attimo, fra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova 1, 2, 3. Sempre 9, 10, sì, attenuato. Com'è Giulio il mio segnale ora? Aspetta un attimino. Ora. Comunque, Franco, è più basso come segnale con quella radio lì. Adesso l'ho notato bene. Perché sto facendo con pochi watt. Giulio! Ehi, dimmi! Il segnale mio ora com'è? Cambio. È passato a 9.10, 9.11, 9.12, siamo lì. Va bene, sono sicuro che tra qualche giorno ti arriverò almeno 9.20. Se mette l'antenna come si deve, sì. È ovvio, se mette l'antenna come si deve, io non credo. Io ci sono sempre. Era Gianni che non l'avete rilanciato. Avanti Gianni. Adesso spero che stia uscendo bene perché ho fatto delle regolazioni. Sicuramente ho toccato l'eco dell'apparato e c'era anche l'eco del microfono, quindi si sovramodulava la vicenda. Buongiorno Gianni, non più rumore, hai ascoltato. Ciao! Ebbene, tutto ok? In speranza che tu mi ascolti, piccolo e nero come Calimero. Poi se viene Sicilia non credo che ti ascolto. Come già? Se viene Sicilia già non credo che ti ascolto. 9.30, fondo scarso. Già, va bene, dai. Per avere l'antennino dello start-up già va bene. La pesca, non quella della start-up, la bifesseria. No, negativo, c'ho l'antennino dello start-up. Io mi ricordavo che c'avevi fatto la canna da pesca. No, l'ho provata ma non è ferma. Non c'ho più il numero di cellulare, sotto ho rimanato la foto. Aspettate in due, capito? Ma io ci credo, comunque stai scendo bene, ti ascolto fortissimo, una forte, fortissimo. Guarda adesso, guarda lo smitter. È differenza, ce n'è. Provo a farti dei passaggi, ma sei troppo in vicinanza. Tu già sei un po' più lontano. Franco è attaccato a me. Provo a farti dei passaggi. Guarda un po', 1, 2, 3, adesso dovrei avere sono più basso sicuramente. Sì, 9.25. Giulio, a quanto mi sono abbassato ora? 9.5. Guarda lo smitter, già. libero alle 9.30, però siamo vicini, capito? Non si può dare il controllo così. Positivo, dai, no, da Giulio salgo più di 9.10, già va bene, dai. Quanti whisky c'hai? Come? Quanti whisky c'hai? Quanti? Aspetta, c'è la radio alta. Quanti whisky, quanti bar? Oh, bah. Quanta watt? 40, sì. Eia, 40 watt. Whisky? No, lascia whisky. Quando tu attacchi un po' ti salta la tappa anche la radio. Te la rende non proprio sciatola, però un po' più sporca. Oh già, io a me non mi piace dire bugie, eh. Se ti dico che ho 40 watt in antenna, sono 40 watt. Non di più, capito? Perché non posso sollevare, c'ho l'antennino e c'ho stazionari. Dai, ci sentiamo fra poco, che stanno a recuperarmi quello strumento. Poi facciamo delle prove. E vabbè, stavate parlando di scaldare appariti, di questo e dell'altro. Averio, bravo. Avanti, fra. Datevi qualche giorno e mi metto a piombo. Alverio, fai da bravo, se no attacchiamo 2005, eh. No, ci sono problemi, non ci sono problemi. Cerchiamo di difenderci come possiamo. Capito? No, già adesso sta scendendo bene la modulazione, va benissimo, anche la radio. E avevo per sbaglio, ieri spegnendo l'apparecchio, ho toccato il tasto invece che su quello del per spegnere, ho toccato quello che attacca il coso, che attacca l'eco, capito? Ho tirato su tutti e quattro, qui ho tirato su anche quello dell'eco, quindi c'erano due eco contemporaneamente. E lo so perché mi sono ascoltato prima di entrare. L'ho venduta nella radio, già, 200 euro. L'hai venduta? No, parla da tavolo di tempio. Ci hai detto che la stai usando adesso? No, ho capito. Ci hai detto che la stai usando adesso con più 4, cosa di te? No, non è quella, questo che sto usando adesso è un'altra radio, non è quello. Il coso, come si chiama? Il 48 ho venduto, il 68 l'ho tenuto. Adesso cosa stai usando? Adesso sto utilizzando l'altra. Tra quale? Il 68? Negativo, l'altra. Ah. Capito? La gemella della tua, dai. Sì, ho capito. Poi è quella radio. Va bene questa. Adesso ho regolato perché stavo controllando la stazionaria, ma stazionaria non ce ne sono e va benissimo. E sta uscendo con pochi watt. Sta uscendo con 15 watt, l'ho dato, dai. Ma lo abbasso ancora perché lo voglio abbassare un'altra appena. Ora. Ok, adesso l'ho abbassato. Sto facendo bene lo stesso, qua vicino, ti ascolto bene, dai. Vai Giulio! Cosa hai abbassato? C'è stato lo stesso segnale, cos'è che hai abbassato? Oh Giulio, cosa ne so? Qua l'ho messo, adesso sta uscendo con 5, con 10 modulati. È sempre lo stesso segnale, anzi, ha aumentato anche un pochino rispetto a prima, aspetta un po'. Cosa vuoi che ti dia? Non so cosa dirti. No Gianni, adesso già stiamo facendo bene. Cosa stai usando tu Gianni? In questo momento il Saturno? Sì, il gas. Ok. Già va bene, dai, già va bene già. Va benissimo. Già va bene, c'è bene Gianni. Ora, 1, 2, 3. Io ho un problema sul potenziometro qua. Ogni tanto lo tocchi, devo cambiare. Ah, dai. Ma poco fa cosa hai detto? Ti ho detto, ma 68, no, 48 mi hai detto tu. Cos'è che ti studia? 68 era, io ho sbagliato io perché c'è già. Mi confondo sempre 68 e 48, capito? No, quello l'ho venduto giù, ce l'avevo dubbio, cosa me ne facevo? Sì, vabbè, quello sì. E puoi fare quello che vuoi delle cose tue, per cui che problemi ci sono. Non devi prendere il permesso da nessuno. Ho venduto bene 200 euro, l'ho dato, già va bene. Lo volevo dare 2,30, poi mai 2, vabbè, puta di sì, lo do. L'ho venduto a uno di tempio, a un camionista. Andiamo, cos'era quello lì? Era preparato, era? Una radio preparata? Cioè va tutto, doppio modulatore, scheda a colto, bibi, canali sotto, i watt, tutta compresa era, tutta completa, capito? Era tutta modificata. Andiamo, praticamente il baracchino che non va bene per il mio carattere. A me quando sono così non mi piace brutto, ma così di là. Vabbè, riprendi Gianni. almeno avete 200 euro in più a Olbia. Vabbè, tu era tutto, era nuovo nuovo pure già, questo era un po' graffiato, però dai già va bene, adesso tanto non ne facevo niente, cosa me la facevo? Cioè, 68, 48, dubbio, cosa mi negozio? Non ne faccio niente. Ho preferito vendermelo e poi adesso mi devo organizzare un'altra cosetta. Ehi, ehi, allora. Sì, adesso ho cambiato il radio, non se ne ha accorto nessuno. Me ne sono accorto, perché adesso sei passato da 9 più 15, sei passato a 9 e 20, che me ne sono accorto. Gianni, quindi che se ne ha accorto Giulio. Cosa pensavi? Che non se ne accorgesse? Hola, hola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ogni dato non bisogna controllare. Io stavo cercando un valvolare giù, hai capito? Anche un 23 valvolare mi serviva. Sarebbe bello valvolare. Se lo trovi, vedo un po', cercalo, se lo trovi. Guarda su internet. Si da capri due che ne ha valvolare. Mi serviva uno per campagna, capito? Lo volevo tenere fisso in campagna un valvolare. Cioè devo svoltare qua, riportare giù, ogni volta è un lavoro, capito? Anche perché lavoro a 2.20, non devo stare a costare metà ore appresso. Quello già è vero. Quello già è vero. Dopo già lo troverai, già ce ne sono in vendita sempre quello. Costano un pochino, però la fortuna è trovarlo con le valvole buone. Il problema è quello, bisogna avere sempre, io va, ho una paura a comprare radi da fuori, gatta, perché magari è toccato, capito, pure tutti qua non funziona. Purtroppo quando compri seconda mano ci sono questi rischi, bisognerebbe, l'ideale sarebbe comprare da chi conosci, sai come è la persona che ce l'aveva, ce l'ha, se lo trattava bene o meno, ma non è sempre facile. Lo so, dipende sempre da dove darò gli acquisti, il problema è lì, vai già. Io per dire, quando ho preso il lui c'era un po' tentennante sul fatto di prenderlo, allora ho trovato una persona onesta, dai, mi ha dato un apparecchio impeccabile, non c'è un graffio, è perfetto, in tutto funziona, tutto funziona come un apparecchio di adesso, dai, va molto bene, c'è l'orologio, c'è tutto quanto, tutto funzionante. E questo qui era un ex radioamatore, cioè un radioamatore che un ex CB che è diventato radioamatore, si stava vedendo tutta l'apparecchiatura che è vetrina, comprata e messa in vetrina, e se la sta tutta vedendo, ne ha fatto un elenco di tutti gli apparecchi che ci aveva, ne aveva una giarada, Inuit, tutti quegli apparecchi lì, tutti in base ci aveva. Forse sarebbe meglio comprarlo sempre da qualche ditta che l'ha permutato, magari quelli quando lo prendono magari le danno la controllatina, se vuole allineato lo allineano, per cui sarebbe, costerà di più sicuramente, però diciamo che un minimo di garanzia te la daranno, no? Vai fra. Questo è perfetto, Giulio. Sì, ma dico, sei stato fortunato che hai trovato una persona onesta che te l'ha dato in ultime condizioni. Però stavo dicendo, ci sono quelli che lo versano e impermutano magari con un altro radio, comprato da uno, bisognerebbe comprare da uno di queste ditte che vendono, che hanno un negozio di elettronica, tipo, che so io, Am Radio o quell'altro shop, come si chiama, non mi ricordo come si chiama, da questa gente qua, quelle lo ritirano, lo mettono in ordine e poi lo rivendono di seconda mano. Certo, sì. No, questo qui funziona a tutte e due le maniere, sia a 220 che a 12 volte, c'è il cavo dietro, tutto quanto perfetto, tutto fatto bene. Beh certo, perché no? Se è a posto, io non ce l'ho uno, quello funziona a 220. Anzi, a dire la verità, funzionava a 220, cioè funzionava a 110 perché è americano, per cui è stato eliminato addirittura il cordone, cioè il filo, la spina mi diciamo, per utilizzarlo direttamente con l'alimentatore, perché il trasformatore che c'è dentro è di quello del 110 e non andrebbe bene per a 220. No, questo questo va 2,20, qua 2,20 esce, per dire, se lo accendo va 2,20, capito? Oppure a 12 volts con l'alimentatore, c'ha due uscite. E vabbè, comunque è una questione di fortuna, perché io una volta avevo ordinato un Galaxy fuori e c'aveva dietro una scheda di 40 metri, tutto quanto, solo che andava male, non sono mai riuscito a aggiustarlo, che qui è quello che ho dato a Manuele, ti ricordi? Ok, appunto, quando fanno quelle modifiche così, è tutto da scenderati, cosa vai tu? Un baracchino a mettergli la scheda per andare in 40 metri, ma dai, è pazzesco, guarda, si tratta di rovinarlo e basta. Vabbè, comunque, ognuno fa quello che crede delle cose sue. Sì, ma io quello che ho volendo, siccome io ce l'ho un alimentatore normalissimo, e volendo posso togliere l'alimentatore, tolgo tutta la carcassa e lo posso inserire dentro, eliminando il trasformatore, perché inserisco quello e funziona anche a 220 pure, per cui non è quello il discorso, perché essendo un baracchino americano, è un Cobra di quelli tipo a tastiera, dunque l'alimentazione era 110, no? Come la tensione americana, per cui è stato tolto, è stato quel sistema lì, cioè tagliato addirittura la corda con la spina, tagliato quello in modo che uno non lo attacchi alla presa, e lo deve utilizzare solo esclusivamente con l'alimentatore. Però è fattibilissimo, basta togliere quel trasformatore, prendi un alimentatore di quelli anche da 3 ampere e ce lo picchi dentro, lo togli da carcassa e ci metti tutto il circuito, funziona ugualmente, no? A 220. Saverio è uscito, deve essere andato da Pomponio, deve essere andato. Avanti, Franco, ci sei? Mi sono messo la poltrona perché con la sedia ci stava male. Vabbè, lo so. Andare. Bravo, dai. Dipendi tu Gianni, io mi allontano un po', dai, che ho un attimino che ho da fare, poi ritorno casomai se ci siete sempre. Dipendi Gianni, a dopo, dai. Ehi, aiutare, buon ascolto, scendiamo dopo. Cosa ti stavo dicendo, Fra, ma non ce l'avevi tu un apparecchio così come quello che stai facendo Giulio, tipo console? Sì, l'avevo venduto. Ciao Giulio, dai, a dopo. Ma l'ho venduto già, capito? Un apparecchio non mi è mai piaciuto a me. Non c'ha estetica. Quale? Quello che ci avevi tu, quello che sembra una console. Per carità. Ma poi che feo, è uno dei pochi che non mi piace sta stazione bassa. Vabbè, facci questo. La stazione base è bella, il Saturno c'è cioè, tu. Stazione base, cazzo, c'è Luis, c'è il Saturno, c'è l'altro della Inter che sono vedi lo stesso. Sono tutti vedi quelli che c'ho. A me piacciono tutti quanti, sinceramente, se no me ne avevo comparati. Aspetta che controllo lo scotch, che mi pare che sia serrato questo scotch. Prova a parlare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sì, io ci avevo lo scotch chiuso. Quando stavo dicendo, a me mi piacciono tutti questi che c'ho, anche così quanto esce bene l'Intec, lo stesso. Esce un bel bene. L'ho visto, sì. Stazione fissa 220 è quella, 220 12. Cosa? Quella lavora 220 a 12 volt. Sì. Sia uno che l'altro. Sia l'Intec che voi lavorano sia a 12 che a 220. Va bene. Va benissimo così. E io mai ho buscato una stazione base. Mi sono stufato con questi alimentatori. Va così in barra. Questo qua già va bene, questo che sto usando adesso va alla grande. Ma sto utilizzando il Ruiz? No, adesso sto usando il Cobra. Ah, ho capito, il Cobra. Alla radio, gara. Ascolta che provo a usarlo con le tarme, davvero, non l'ho mai provato col tarme. Come va col Tarner? Ma io ti ascolto bene qua. Meglio dell'altro o peggio? L'altro mi piaceva di più, la verità, come microfono. Questo qua il Tarner è Super Sidekick. Ma il Sidekick? Ma l'altra mi sembrava più forte con il radio, è un'impressione mia. Questo qua è un microfono, comunque il trimmer è sempre così, se lo abbassi, guarda, se lo abbassi poi c'è la radio, guarda. La sto alzando piano piano, piano piano, piano piano, guarda dove sei al massimo. Ma non spinge già, non spinge molto come radio, boh, non ho capito perché. Aspetta, metto l'altro, quello quale microfono è? Questo qua è quello che fa tutto, fra. Quello va bene. Fra, devo andare che siamo arrivati a mangiare, là, ci sentiamo. E siamo arrivati gli ospiti. Ciao, ciao, ci sentiamo, fra. Ciao, ciao, ciao, ciao. Buon carica, buon tutto.